te lo raccontiamo noi, l'autunno caldo. 50 anni dopo, il 68, il 69 e Piazza Fontana. Buonasera a tutti. Buonasera con Agostino. Michele. Allora Michele, cosa succedeva fuori dall'Italia in quegli anni lì? Perché ovviamente si parla molto dell'Italia, ma parliamo di movimenti che hanno un respiro e una dimensione sicuramente internazionale. Beh, la fine degli anni 60 è stato un periodo di tumulti, rivolte e rivoluzioni a livello internazionale, anche nel centro dell'imperialismo americano, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, per esempio, erano gli anni in cui nascevano e si costruivano e si radicavano i Black Panther, che era un movimento di autodifesa armata e di mutuo soccorso della popolazione nera, nato soprattutto nei ghetti delle grandi città. Ma anche i bianchi si davano da fare, c'erano movimenti studenteschi, c'erano organizzazioni studentesche socialiste, da cui poi nacquero piccoli gruppi ma molto combattivi, anche clandestini, come i Weathermen Underground, che si chiamavano così richiamandosi da una canzone di Bob Dylan. E poi anche in Francia non c'è stato soltanto il maggio del 68, ma un'onda lunga di lotte che è durata almeno per un altro biennio, dove al contrario dell'Italia, dove erano prevalenti i maoisti, lì avevano una presenza fortissima i trotskisti, che per un periodo furono anche messi fuori legge dal governo gollista. Penso in questo primo momento gli Stati Uniti, film come Fragole e Sangue, Berkeley, che ci raccontano un po' anche, no, quel periodo lì, che forse andrebbero ripresi per avere diciamo un quadro migliore, più efficace di quello che è stato anche lì, di quella che è stata anche lì la contestazione, no? E le mobilitazioni che furono notevoli. E invece per quanto riguarda il Sud America e l'America Latina? Beh, l'America Latina era ancora un continente di grandi lotte e con la presenza anche di movimenti guerriglieri. Solo nel 67, due anni prima dell'autunno caldo italiano, era morto Che Guevara in Bolivia, ma erano anni in cui si costruiva, si rafforzava la sinistra rivoluzionaria anche in altri paesi del continente, per esempio in Argentina con il PRT, Partito Rivoluzionario del lavoratori, e la sua parte armata, l'ERP, che continueranno a essere presenti nel paese fino al colpo di stato del 76, dove verranno sostanzialmente quasi tutti sterminati. Mentre in Cile si costruisce e nasce la sinistra rivoluzionaria, nasce il MIR, Movimento Izquierda Rivoluzionaria, che poi appoggerà Allende e poi anche verrà sconfitto ovviamente dal golpe di Pinochet nel 73. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement looking right the government. A man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad bill, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. Man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills and you only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says a man, he say they must bust an early mate, orders from the DA. Look out, kid, it don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those that carry around a fire hose. Don't need PP for clean nose, be careful of the plain clothes, don't need a weatherman to know which way the wind blows. Well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get far, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, grilled by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders or watch your parking meter. Get born, keep warm, short pants, romance, learn to dance, get dressed, get blessed, try to be success, please her, please him, buy gifts, don't steal, don't live, 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, to keep it all hid, better jump down a manhole, light yourself a candle, don't wear sandals, try to avoid the scandals, you don't wanna be a bum, don't chew gum, the pump don't work cause the vandals took the handle.

donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Abbiamo qui con noi Diego Zacchetti, studioso dei movimenti degli anni 60-70 e della cultura di quel periodo, ma soprattutto Diego ha scritto anche un libro alcuni anni fa per la Manifesto Libri, Venti dell'Est, centrato sulla contestazione 1968 e 69 nei paesi del socialismo reale. Ciao Diego. Ciao, ciao. Siamo nel 2019, è il 50° anniversario della morte di Jan Palach a Praga, però la contestazione nel mondo del socialismo reale non è stata soltanto la primavera di Praga e la Cecoslovacchia, ma ha riguardato anche altri paesi. Ci puoi fare una descrizione di quello che avvenne oltre Cortina? Dunque, oltre Cortina si ebbe, come si ebbe nei paesi occidentali, una questione giovanile e di disagio giovanile che si manifestò attraverso la musica e gli stili di vita. Ci sono testimonianze che rendono quei giovani uguali ai cappelloni italiani, occidentali, agli hippie, alla musica rock. E quindi anche lì c'è una questione generazionale giovanile. Uno studioso americano, di cui non ricordo il nome, si è chiesto: ma quella era una generazione leninista o una generazione lennonista, da John Lennon dei Beatles? Ma ci sono stati movimenti, per esempio, anche in Jugoslavia, un paese abbastanza vicino geograficamente all'Italia, di cui però si è parlato molto poco e si sa molto poco. Ci puoi raccontare qualcosa? In Jugoslavia, in Cecoslovacchia e in particolare anche in Polonia, in questi tre paesi dei paesi dell'est, si svilupparono dei movimenti studenteschi che passarono da una contestazione di disagio e conflitto generazionale giovanile a veri e propri movimenti simili a quelli italiani e francesi e occidentali. E quindi anche in questi paesi si svilupparono dei forti movimenti studenteschi a Belgrado e a Praga, nelle università cecoslovacche, e poi in Polonia. Tanto è vero che è un episodio poco ricordato, ma la Polonia anticipa già a marzo quello che sarà il maggio del tanto declamato 68 francese, perché già nel marzo del 68 le università polacche vengono occupate con richieste di libertà di stampa, di partecipazione, di diritto di assemblea, duramente represse dalla polizia. Diverso il decorso che ha invece in Cecoslovacchia, perché lì è in atto un programma di apertura e di riforme democratiche condotto da una parte stessa del Partito Comunista, entro il quale si sviluppano questi movimenti, come si svilupperanno anche poi nelle fabbriche con la nascita di consigli di fabbrica. In Jugoslavia in particolare abbiamo l'Università Rossa, le occupazioni universitarie, parallelamente al 68-69 a un conflitto operaio che si radica nelle fabbriche attorno al tema dell'autogestione. In Italia i movimenti di contestazione nel socialismo reale, se e come vennero recepiti dal punto di vista politico e culturale? Allora, senz'altro ci fu un'attenzione e una diffidenza verso questi movimenti, imparagonabile con l'accoglienza che invece ebbe in Italia la contestazione degli altri paesi occidentali dell'America, il Maggio francese, eccetera. L'eco fu molto minore e la ricezione fu molto minore, non solo da parte dei partiti tradizionali istituzionalizzati della sinistra, ma da parte del movimento stesso studentesco. Questo ha tante ragioni e richiederebbe tante spiegazioni, ma è un dato di fatto abbastanza drammatico e allarmante, anche perché quei giovani dei paesi dell'est cercavano i contatti con i loro coetanei nei paesi occidentali, cercavano un dialogo, guardavano con interesse a quello che facevano gli studenti e gli operai in Italia e in Occidente. Non erano osservati con altrettanto interesse e partecipazione da parte dei movimenti studenteschi e operai dell'Europa occidentale. Questo è un grosso problema. Gli unici che si posero, per ragioni geografiche, in un contatto dialogante furono, guarda caso, i tedeschi. Il movimento studentesco tedesco cercò approcci e li ebbe, scambi di vedute, di partecipazione con i cecoslovacchi. All'interno dei paesi dell'est, però, l'esempio era ricorrente da un paese all'altro. I giovani berlinesi, ad esempio, nel 68, manifestavano chiedendo al partito un'apertura simile a quello che stava avvenendo a Praga nel 68. Anche loro rivendicavano una primavera, un'apertura, una democratizzazione del sistema. Il caso polacco poi è ancora più emblematico, perché il caso polacco non solo c'è una coincidenza con i movimenti studenteschi cronologici del paese europeo, ma c'è una coincidenza con le lotte operaie del 69, che hanno una dimensione italiana ma non solo, perché alla fine del 1969 in Polonia si apre una grande stagione di lotta a cavallo tra il 70 e il 71, che porta all'occupazione delle fabbriche, costringe Gomulka alle dimissioni, chiedono e ottengono rivendicazioni importanti dal salario ai luoghi di lavoro e alle condizioni di lavoro, nonché la formazione e la nascita di delegati operai che trattano direttamente col partito, scavalcando il sindacato istituzionalizzato e propartitico. Il Partito Comunista Sovietico, che era un po' il centro di quel mondo, come reagì di fronte a questi movimenti? In Unione Sovietica un movimento studentesco simile a quelli di cui abbiamo parlato finora non venne mai a costruirsi e a svilupparsi. Venne invece a costruirsi e a svilupparsi un movimento giovanile attorno alla musica, rock, stili di vita, la minigonna, che in qualche modo chiedevano una libertà personale maggiore, vestirsi come volevano, uscire con chi volevi, rapporti prematrimoniali, eccetera eccetera. Questo sì, il Partito Comunista in Unione Sovietica reagì non dovendo affrontare una contestazione politica, sostanzialmente, reagì in qualche modo accettando questa cosa e considerandola una deviazione dalla rettitudine della vita del giovane comunista, una deviazione, e cercò di combatterla come imborghesimento americano e capitalistico. Ma questa fu una battaglia persa, perché nella guerra fredda, la guerra fredda culturale fu senz'altro vinta dagli Stati Uniti d'America, che invasero quel mondo con le loro musica, con i loro jeans, con i loro stili di vita, e formarono una generazione, come vi dicevo prima, una generazione che cominciava a essere, io lo dico scherzando, non più leninista, ma forse lennonista. Visto che hai studiato molto anche i fenomeni di costume, secondo te i baci di Brezhnev si possono considerare come antisegnali di un movimento gay in Russia? No, direi assolutamente no, perché lo stalinismo si era costruito cancellando le leggi promulgate dalla rivoluzione russa, che appena preso il potere, che favorivano invece e liberavano la sessualità anche omosessuale e non reprimevano più la sessualità omosessuale. Lo stalinismo invece ripropose delle leggi che oggi diremmo omofobe e con una forte repressione verso l'omosessualità maschile e femminile, curata in modi diversi, se proprio vogliamo distinguere la cura tra Stalin e Brezhnev. La differenza era che sotto Stalin finivi nei campi di lavoro, sotto Brezhnev invece era considerato una malattia, una deviazione da curare negli ospedali psichiatrici. Tra l'altro, vista la fine che hanno fatto alcuni leader dei paesi dell'est baciati da Brezhnev, potremmo quasi dire che portavano sfiga i baci alla sovietica. Può darsi, certamente, però va detto che di tutte queste cose di cui abbiamo parlato, forse fu l'ultima grande stagione che si offrì all'Unione Sovietica e a questi regimi cosiddetti di democrazia popolare di provare a riformarsi. Non la seppero cogliere questa cosa, che peraltro era un movimento che a modo suo chiedeva una rivoluzione politica, non metteva in discussione il tipo di organizzazione economico-sociale. Non colsero questo, e quindi questa sconfitta sconfitta ulteriore, questa incapacità della burocrazia di concedere qualcosa, di riformarsi un pochino, fece sì che poi nell'89 a questo punto si buttasse via tutto, il bambino e l'acqua sporca. Grazie Diego per il tempo che ci ha dedicato, a presto. Grazie, ciao. Se le strade cambiassero di nome, un bel giorno, tutt'a un tratto, ci sarebbe un caso la ragione di girare soddisfatto. Se per esempio Corso Umberto si chiamasse Karl Marx Strasse, è una strada che più grande non ce n'è. Lenina le, vorrei trovar la lallera, quest'erba prodigiosa, qualunque cosa incontri, la fa meravigliosa. Vorrei trovar la lallera, ma non solo per me, e avendola trovata, piantarla nel bidet. Ci fosse un po' di lallera, quest'erba delicata, tutti vedrebbero chiaro, mangiandola insalata, e avendo l'accortezza di mangiarla con l'uovo, niente più confusione, avresti l'uomo nuovo. Se le strade cambiassero di nome, un bel giorno, tutt'a un tratto, ci sarebbe il caso la ragione di girare soddisfatto. Se per esempio Corso Umberto si chiamasse Karl Marx Strasse, è una strada che più grande non ce n'è. Sarebbero davvero sufficienti due picconi e uno scalpello, ci vorrebbe un'altra sorta di strumenti, che so io, falce e martello. Ed allora in tutta quanta la città crescerà la lallera, ed allora in tutta quanta la città crescerà la lallera. Se le strade cambiassero di nome, un bel giorno tutta un tratto, sarebbe in un caso la ragione di girare soddisfatto. Se per esempio Corso Umberto si chiamasse